la birra scende giù, da tempo non le conto più, anche la luna da lassù è già ubriaca più di me. Sono re degli ubriaconi e delle buie periferie, dei muri scritti sono dei lampioni e delle notti passate in prigione. Gioca ai cavalli alla schedina, ma le mie calze sono bucate, allo stadio è la mia vita, lungo gli spalti e le gradinate. Le donne sono parte di me, ne avrei un paio anche per te, ma io sono un grande amore che è da sempre nel mio cuore. Si chiama Argo ed è il mio cane, dei miei amici è il più leale.